Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Bene, ora è il momento di tornare a casa, sono le 12.08, quindi benvenuti in questa casa che non è un albergo, che oggi apre senza Alberto. Alberto! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma ti viene in mente di lasciarmi sola in questa casa? Sai che pensavo proprio, visto che nella nostra trasmissione si parla di adolescenti, che la mia potrebbe sembrare una di quelle piccole fughe da casa che ogni tanto gli adolescenti fanno. Sì, però quando uno non ha più l'età... Cioè... allora prometto, non lo farò Va più. Va bene, senti, tra l'altro oggi un tema direi molto caldo che periodicamente noi affrontiamo perché riguarda molte famiglie, un tema legato al rischio in adolescenza, è un rischio che purtroppo si fa sempre più evidente. Alberto, anticipiamolo prima di mandare la nostra lettera che come sempre noi selezioniamo tra le tante che ci arrivano. Ricordo la nostra mail essere benessere@radio24.it, con i vostri spunti ci aiutate a entrare nelle vostre case, quindi a sottolineare quelle che sono le difficoltà, i temi che necessitano un confronto con più teste. Alberto. Sì, questa direi, quella di cui parliamo oggi, è diventata la paura numero uno dei genitori, cioè la paura legata al fatto che i figli possano usare sostanze ad azione psicotropa o droghe di varia natura, tra l'altro una paura molto alimentata dai media. Proprio nelle ultime due settimane sono uscite nuove indagini che rivelavano che c'è proprio un'epidemia rispetto all'uso di alcune sostanze, marijuana e cocaina in primo luogo, proprio tra i giovanissimi. Allora io, Alberto, passerei quindi alla mail che ci fa entrare nell'argomento di questa puntata, un'occasione per ringraziare Fabio Cantadori che è in regia alla parte tecnica e Gigi Borghi in assistenza. Partiamo con la nostra lettera. Settimana scorsa mia moglie stava sistemando la camera di mio figlio e in modo totalmente casuale si è imbattuta in due piccoli cartoncini di carta stagnola che contenevano alcuni semi. Non capivamo assolutamente che cosa fossero e così siamo andati in un motore di ricerca. Non c'era dubbio, quelli che mio figlio conservava in quegli strani pacchetti erano semi di cannabis. Ci siamo spaventati e non appena è tornato a casa lo abbiamo affrontato. Lui ci ha detto che un amico gli aveva dato questa cosa, dicendogli di tenerla fino a quando non gliele avrebbe richiesti indietro. Ecco perché i due cartoncini erano lì. In effetti mio figlio non ha fatto nulla con queste cose, però ora siamo spaventati a morte. Non solo ci è venuta la paura che lui faccia uso di sostanze, ci è anche venuta paura che lui possa distribuirle in giro o che si trovi coinvolto in qualche losca faccenda. Quest'anno a scuola lui va particolarmente male. In classe disturba e siamo già stati convocati dal preside, che ci ha detto che se tutto continua così, l'anno finirà male. Siamo molto preoccupati e non sappiamo cosa fare. Soprattutto ora vorremmo capire se nostro figlio usa sostanze stupefacenti e sapere a chi ci possiamo rivolgere. Beh, Alberto, un po' d'ansia viene, eh? Direi che questa lettera davvero è piena di una serie infinita di indicatori di rischio. Rimane poi la domanda cruciale per poter capire come muoversi: davvero nostro figlio sta usando o non sta usando queste sostanze? Cioè, come faccio a capire se mio figlio si droga, insomma, questa sarebbe la domanda chiave di oggi. E allora, per aiutarci a rispondere a questa domanda e soprattutto a fornirci delle indicazioni pratiche, abbiamo un esperto, il dottor Maurizio Coletti, psicologo, presidente di Itaca Europa, l'associazione europea degli operatori professionali delle tossicodipendenze, e autore di un libro dal titolo Come faccio a sapere se mio figlio si droga. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta. Dottore, questo libro ha un titolo che sta a cuore in questo momento a moltissimi genitori, non solo naturalmente al papà che ci ha scritto una mail, ma anche ci viene un po' la paura sentendo anche da altre coppie raccontare un disagio in famiglia, il dubbio, già perché anche quando si insinua il dubbio è molto logorante e ci troviamo subito impreparati. Ne parliamo col ragazzo, come, se lui non dice la verità e se fosse invece un falso allarme. Dottor Coletti, ci aiuti a prendere un po' una strada? Sì, Il libro, il libretto, io l'ho sottotitolato Manualetto per genitori preoccupati, è diretto, è dedicato, è destinato soprattutto a quei genitori che a un certo punto vengono presi da angosce e preoccupazioni, proprio veramente i contenuti del messaggio che avete ricevuto, perché hanno il timore, magari già sanno, già hanno dei dati concreti che il figlio, la figlia o i figli fanno uso di sostanze. Partiamo da un punto che un genitore non si inventa un sospetto, in questo caso è stata una casuale azione di ritrovamento di qualcosa che ha allarmato, ma certamente quando si hanno dei sospetti, questi sospetti non sono calati sul nulla, perciò occorre agire. Allora, agire è un po' la teoria che sviluppo in questo librettino. Significa occuparsi e non preoccuparsi, significa essere attivi o, come diciamo spesso, proattivi, significa prendere le cose in una maniera molto seria, né inutilmente repressiva né colpevolmente superficiale, significa prendere direttamente il filo di un discorso che va dai genitori ai figli. Questo mi sembra il punto fondamentale. Quindi nel caso il nostro genitore ha fatto bene quando il ragazzo è tornato a casa, lui dice a casa lo abbiamo confrontato, uno può leggere queste parole con diverse sfumature e quindi parlare direttamente con lui prima che iniziare a cercare altri segni? Indubbiamente parlare subito con lui o con lei, insomma con sì. Loro. Direttamente, senza infingimenti, senza giri di parole, senza far capire, non far capire. Queste sono questioni molto serie, vanno affrontate seriamente, una grande energia ci vuole in queste situazioni. Certo, non bisogna farsi prendere dal panico, certo. Non bisogna pensare. Questo non è semplice, dottor Coletti, ma cercheremo con lei di trovare le parole giuste, lo faremo naturalmente insieme anche ad Alberto Pellai, che oggi non è in studio, ma è qua praticamente, anche perché adesso la prossima volta, Alberto, mi metto una tua foto. Come faccio a sapere se mio figlio si droga? In linea con noi Alberto Pellai e il dottor Maurizio Coletti. Arriva un sms molto lungo di una mamma che dice, scrive, so da mia figlia che alcuni suoi compagni si fanno le canne, lei me ne parla come qualcosa a lei estraneo, ma mi devo fidare o c'è il rischio che lei diventi come i suoi compagni? Alberto, ma direi che il gruppo, proprio... ecco, il gruppo tante volte ti induce a percorrere delle strade che magari da solo non ti sarebbe venuto mai in mente di affrontare. Allora questa mamma in effetti ha una preoccupazione che per me è reale, insomma, chi va con lo zoppo impara a zoppicare banalmente, no? Ma direi che però intanto la mamma ci sta proprio raccontando il maggior fattore di protezione che sua figlia sente di avere a disposizione, cioè un dialogo franco e aperto con i genitori. Cioè, una delle cose che succede è che quasi sempre i figli si imbattono in storie di droga dei figli proprio perché mai i figli gliene hanno parlato. Questa ragazza sta facendo un'operazione esattamente contraria, cioè sta proprio esplorando con i genitori le molte perplessità che ha rispetto ai comportamenti dei suoi compagni. Sta dicendo lì sta diventando una cosa normale, io vorrei starne lontana, in qualche modo sta anche chiedendo aiuto, per cui è fondamentale che il genitore in una relazione, in un dialogo di questo tipo, invece di costruire giudizi sugli altri amici, cominci proprio a lavorare sulle emozioni del figlio. Tu ti senti escluso se non utilizzi come loro, o contemporaneamente guarda i tuoi punti di forza rispetto a loro, oppure ti è mai capitato di vedere che loro che ne fanno uso hanno in realtà poi dei comportamenti o delle cose che non ti piacciono per niente? È proprio da lì che parte la conversazione familiare. Un altro messaggio ce lo manda Giuseppe. Dottor Coletti, glielo leggo. Bisogna impedire ai ragazzi di fumare, perché dalla sigaretta alla canna il passo è breve, anzi quasi diretto. Dottor Coletti. Beh, mi pare un po' esagerato, nel senso che questo passaggio c'è sull'alcol, c'è su tanti comportamenti non salutari. Ora, qual è il punto che mi veniva da commentare ascoltando il messaggio che voi avete letto della mamma con i dubbi e le preoccupazioni per la figlia, che c'è un'enorme differenza con la posta elettronica che voi avete letto prima, e mi sembra che Pellai l'abbia sottolineato con grande efficacia. Ci sono tutta una serie di elementi che accompagnano un consumo problematico di sostanze, che fanno appunto un aspetto molto molto preoccupante. Nel messaggio precedente si diceva c'è una diminuzione di rendimento scolastico insieme, se ho capito bene, sì, ad un comportamento che è cambiato, eccetera. Ecco, questi sono segnali certamente molto importanti da prendere. Quando invece questi aspetti sono in linea di massima abbastanza regolarizzati, quando a scuola si va abbastanza bene, quando il gruppo di amici, al di là poi delle esplorazioni che sono tipiche di quest'età, che sono tipiche dell'età dell'adolescenza, della tarda adolescenza, quando c'è un rapporto in famiglia, appunto, che è un rapporto solido, sì, beh, insomma, non possiamo stare mai tranquilli, ma tuttavia un margine di tranquillità possiamo averlo. Sì. Senta, dottor Coletti, mi piacerebbe anche coinvolgere Alberto, che con i genitori ci lavora, soprattutto con i papà. Nel suo libro discute diverse situazioni in cui magari un genitore può venire a sapere che il figlio si droga da altri. Quali sono le situazioni più comuni, se magari, e come deve reagire un genitore se a dargli il sospetto sono per esempio i genitori di un amico, no? Oppure dei parenti, oppure magari anche lo stesso preside della scuola, a volte intervengono anche loro. Dicevo prima che normalmente i sospetti non sono mai basati sul nulla, in questo caso si dice sono basati su una serie di indicazioni, di segnalazioni che vengono da fuori. Io credo che il primo punto sia quello di evitare con forza, è molto difficile, ma bisognerebbe evitare di agire prima di riflettere. Sì. Il secondo punto è quello di evitare di trasformarsi con tutte le buone intenzioni, in investigatori privati. Ecco. Cioè, io non sono convinto che questa sia la strada giusta, che andare a cercare in cassetti, in zainetti, in tasche, eccetera, in maniera continuativa sia la strada giusta, perché una volta poi che si trova quello che si sta cercando, si è scoperti nell'identificare qualcosa da fare, ecco. Sì, quindi, e poi dopo immediatamente, secondo me, occorre prendere la palla al balzo e chiedere un colloquio, insistere, pretendere un colloquio, non scoraggiarsi se alla prima volta c'è un rifiuto. No, non è vero, non è così, ti sei inventato tutto, cosa ti sei messo in mente, cosa avete fatto, siete andati a cercare, non vi fidate di me, insomma lì bisogna insistere. Con una certa forza. Alberto, scusami, tante volte dei genitori si dicono ma io lo so, l'ho visto, ma me l'hanno detto, però io non voglio dirlo ai suoi perché sai, poi qua sono cose, si rischia di rovinare un'amicizia. Invece quella, noi abbiamo tante volte parlato di genitorialità sociale. Questo, allora, penso che sia un aspetto che con la genitorialità sociale ha molto a che fare. Certo, io è chiaro che un genitore che si sente confrontato da un altro adulto che lo mette in allerta rispetto al fatto che il figlio usa sostanze, è un genitore che automaticamente va in crisi e che usa come prima difesa il fatto non voglio crederci, non può essere mio figlio, e che sente anche probabilmente il giudizio su, certo, di sé, cioè un genitore che sta fallendo. D'altro canto invece bisogna proprio fare un salto di qualità, cioè sentire che dentro questa confidenza che riceviamo c'è davvero il bisogno di un altro genitore di cooperare con noi, cioè ti sta lanciando un messaggio davvero importante e in qualche modo ci sta lanciando un messaggio che a volte gli stessi figli vorrebbero che noi recepissimo. Cioè molte esplorazioni nel territorio del rischio dei figli sono fatte perché i genitori si accorgano di loro, si accorgono che stanno davvero rischiando, che hanno bisogno di sostegno, di protezione, di accompagnamento. Quindi direi un genitore naturalmente va in panico, sì, ma poi può dire questa è una risorsa per me. Cioè, ecco, mi piacerebbe troppo, Alberto, se alcuni dei nostri ascoltatori da casa magari ci mettono a parte della loro storia, magari sarebbe anche bello loro sentire, esatto, come loro hanno saputo del figlio, come sono intervenuti. Ricorda tu il numero verde, così mi sembri a casa. 824 0024 824 0024. Nonostante la lontananza, Alberto se lo ricorda bene questa chiave d'accesso per entrare nella nostra trasmissione, nel nostro salotto. Fulvia ci chiama dalla provincia di Treviso, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Nicoletta e complimenti, la seguo sempre con molta attenzione. Grazie Fulvia. Senta, io sono una docente, sì, prima di tutto, nel senso che non sono un genitore e volevo chiederle qualche suggerimento, sì, per intervenire nel caso in cui noi ci accorgiamo e ce ne accorgiamo, o direttamente o perché qualche ragazzo ce lo dice, insomma, che ci sono studenti che fanno uso di sostanze. Sì, quale tipo di suggerimenti? Anche perché, professor, devo, non so se posso chiamarla Fulvio o prof. Certo, certo, ecco, certo. Tante volte. Io che non sono un genitore. Senta, no, ma avevo capito. Anche perché spesso uno si chiede come genitore quando viene a saperlo. Ma se mi dicono, se poi ho scoperto che, ad esempio, si faceva anche la canna, non lo so, nel cortile, nascosto un po' nel cortile, certo, della scuola, possibile che gli insegnanti non vedano, non so, che ha un po' uno sguardo strano, che non è attento. Allora, dottor Coletti, Alberto Pellai, mettetevi al lavoro. Iniziamo dal dottor Coletti. Che cosa può rispondere a Fulvia? Sì, io farei un discorso innanzitutto su che cosa vogliamo ottenere. Io credo che tutti vogliamo ottenere innanzitutto di capire la natura e la gravità del problema. Dall'altra vorremmo che, qualora il problema fosse rilevante, ci siano azioni, possano essere messe in campo azioni correttive. Per fare questo mi pare indispensabile passare attraverso quel pertugio minuscolo che si chiama volontà del soggetto, e cioè la possibilità per l'adolescente, per il giovane adulto, per il tardo adolescente di condividere questa preoccupazione ad un certo punto. Al contrario, invece, quando questa condivisione non c'è, quando non c'è attenzione, quando non c'è motivazione, gli interventi correttivi non sono possibili. Allora dobbiamo piegare tutte le cose che possiamo fare a questo obiettivo. Perciò evidentemente l'insegnante, il docente che si rende conto di questo tipo di comportamento si farà mille domande, tra cui quella di coinvolgere i genitori, e quindi a questo punto esistono per esempio in molte scuole un insieme di risorse aggiuntive, i servizi territoriali per l'adolescenza e per l'infanzia lì dove ci sono, cercare cioè di evitare la strada della drammatizzazione, certo, che purtroppo non fa raggiungere i risultati che io prima cercavo di identificare. Ecco, ad esempio io ho 3 o 4 messaggi firmati, non mi dicono genitore, non genitore, ma mi dicono in pratica, ve li riassumo, perché demonizzare una canna, che cosa sarà mai, l'hanno fatto tutto nel liceo, se uno con un messaggio mi dice rischiando, demonizzando una canna si rischia poi di peggiorare la situazione, di portare il ragazzo chissà verso quali strade. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di sospetti. Ho il sospetto che mio figlio si droga, cosa faccio? In linea con noi abbiamo il dottor Maurizio Coletti e il nostro Alberto Pellai è sempre in linea. Alberto, ci sei? Eccomi. Intanto andiamo a Pisa, ci chiama Fausto 824 0024. Fausto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Dunque, ho pensato di intervenire perché appunto l'ansia che trasmetteva il messaggio di quei due genitori mi ha fatto molta tenerezza, mi ha fatto un po' rivivere i primi momenti in cui io appunto mi resi conto che mio figlio fumava qualche canna. Io ho 47 anni e partendo dalla considerazione dal fatto che ci sono molte persone, molti padri di famiglia che sono passati da 68, sì, un periodo in cui tantissima gente ha fumato le canne e comunque non sono diventati drogati, sì, sono stati, quindi voglio dire, fumare una canna non è assolutamente, voglio dire, poi cominciare un percorso di droga. Ho apprezzato molto il medico che ha detto che non ha appunto demonizzato questa cosa, perché noi siamo i rompiscatole dei figli, i genitori sono i rompiscatole, i controllori, e loro cercano, trovano sempre appoggio verso amici, verso coetanei. Sì. Quindi forse secondo me indagare, come ha suggerito un'altra persona, di insistere, cioè, ha detto giustamente a Deleterio, insistere troppo ad indagare, trasformarsi in 007. Sì. Io trovo invece che sia molto più utile cercare di innanzitutto di essere complici, sì, nel senso. Quindi, che se si capisce, Fausto, mi scusi, come ha detto il dottor Coletti, parlare con il ragazzo, che è un, esatto, no? Rafforzare, è una pratica che noi genitori dobbiamo imparare, che va bene con, in ogni occasione. Quindi lei ha seguito un po' questa strada, quindi ha parlato, sì, con, sì, suo, sì, figlio. Sono complice del mio figlio, anche una figlia di 22 anni che c'era passata anche lei senza dirmi nulla, però lei è una personalità molto forte al liceo, diceva, guarda babbo che al liceo cioè c'è un via vai di questa roba che tu non ti immagini, quindi lei ci ha provato perché voleva giustamente avere un'esperienza, però poi che io sappia non ha più, ecco, non ha più provato. Mentre sì, il ragazzo invece ha, essendo una personalità in carattere, una personalità più debole, mi preoccupava un po' di più. Allora io ho cercato innanzitutto di essergli complice, quindi di capirlo, perché appunto partendo dal presupposto che la canna ti dà un senso di rilassamento, ti dà... Cosa vuol dire? Sì, ma lei lo capiva, nel senso che non demonizzava il fatto che suo figlio si facesse qualche canna, ma operativamente poi cosa ha fatto perché questo rimanesse solo un'esperienza proprio magari di ricerca e non si trasformasse invece in qualcosa di più serio? Ho cercato di informarmi, di interessarmi, di capire, di parlare con gente che di droghe ne ha provate di più. Sì. Io premetto che non ho mai, io ho 47 anni, quando ero adolescente ho sempre rifiutato l'idea. Sì. Senta, Fausto, di una canna. Io la ringrazio per la sua esperienza, rimanga se vuole in linea con noi perché chiediamo un po' anche il parere di Maurizio Coletti e di Alberto Pellai. Dottor Coletti. Sì, infatti sono concorde su quanto Fausto sta dicendo. Prima questione, non conviene drammatizzare. Potremmo entrare forse diciamo in una discussione molto polemica, cioè non ci fa portare a casa nulla. Quando si inizia solo e basta, una canna fa bene, fa male, eccetera. Io credo che di questo se ne è discusso talmente tanto che diventa abbastanza inutile. Direi una cosa intanto, che mi sembra che si riconfermi la questione del canale preferenziale nel rapporto, nella relazione. Sì. E questo aspetto che prima Alberto Pellai sottolineava della genitorialità sociale mi pare formidabile, cioè in altri termini cercare fuori dalla propria famiglia delle risorse, dei momenti di discussione, di confronto, per capire da una parte di che cosa si tratta se non lo si sa, e anche per trovare sostegno per capire cosa hanno fatto gli altri. Questo mi sembra un'altra risorsa, certo, assolutamente formidabile. Alberto, vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, personalmente penso che il ruolo dell'adulto sia davvero mettersi a disposizione come un ricercatore, uno scopritore di significati. Come mai stai facendo questa, e magari anche un esploratore di da quanto tempo, come sì, non in modo indagatorio. Non sono d'accordo col termine diventare complice. Anche cioè, a me è un complice che non può è dare... È proprio il rischio, cioè non dobbiamo mai dimenticare che di fronte a ciò che è trasgressione, tra l'altro è sancito anche dalla legge, i ragazzi hanno proprio bisogno di adulti che abbiano chiaro in mente qual è il paletto e lo propongano in quanto tale, cioè questa è una cosa che non puoi fare in talvolta casa. Però Alberto, usiamo il termine complice per dire siamo comprensivi, certo, aperti, certo, al dialogo, però per non... canto, ecco. se un genitore stabilisce dov'è il limite, quando un figlio lo oltrepassa sa che sta trasgredendo. Se un genitore questo limite in testa non ce l'ha lui neanche per sé, ecco, il figlio entra in un territorio di straordinaria confusione, perché quando entra nella trasgressione non ha capito se sta trasgredendo, se è nella norma, e questa sorta di controllo interno glielo può buttare dentro soltanto lo sguardo, la parola e l'occhio del genitore, che non è complice ma presidia il ruolo di genitore. Allora, abbiamo veramente un minuto del tempo di salutare Antonio da Pordenone, se ha un contributo molto rapido, perché così possiamo salutarci in bellezza. Antonio, grazie. Pronto? Sì, Antonio. Ecco. Sarò rapidissimo. Io sono un docente, sì. E quindi ho affrontato, mi capita di avere tutte le mattine dei ragazzi davanti, e al sospetto che alcuni di questi facessero uso di sostanze, sintomi, occhi strani, per cui abbiamo così in maniera informale ho richiesto un colloquio con i genitori, e la reazione è stata: come vi permettete, come vi siete permessi, io vi denuncio, una cosa così non c'è, voi non avete i mezzi per dirlo, per cui noi abbiamo deciso di soprassedere e non provare nemmeno a intraprendere con i ragazzi un dialogo su questo argomento, perché poteva tranquillamente innescare un vespaio, per cui è andato avanti così. Il nostro tentativo di essere genitori sociali è fallito. Ci scrive anche Daniel, che lavora in ambito di pubblica sicurezza, e dice che tante volte quando fermano vengono chiamati i genitori per via del fermo, invece di intervenire con i propri figli quasi colpevolizzano noi, scrive Daniel, perché li abbiamo fermati. È tempo di salutarci, e quindi direi, Alberto, di chiudere questa prima parte, perché torneremo naturalmente ad affrontare questo tema che ha attirato molto interesse da parte dei nostri ascoltatori. Dottor Coletti, le tornerà a tornare? Certo, ecco, molto volentieri. Accomodarsi nel nostro divanone, che è molto comodo, ci sarà anche Alberto, e quindi prenderemo un caffè chiacchierando dei nostri figli insieme. Dottor Coletti, grazie. Grazie a voi e saluti a tutti. Alberto, so che senti la nostra mancanza, ma ci sentiamo e vediamo sabato prossimo. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Buona giornata a tutti da Nicoletta Carbone. Noi invece ci sentiamo lunedì dopo il GR delle 11.